luogo comune, contro gli astri e le lune, contro il caso e la sorte, contro alle gambe corte. Divertimento falso. Pensiero comune, contro paura ed inganno, contro cabale e sfortune, contro quelli che non lo sanno. Wow, wow. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.